Tu sei un ingenuo. Tu credi a tutto e ti butti con troppa facilità perché sei un ingenuo. Tu sei avido e vorace di conoscenza e abbocchi a tutti i mangimi. Ma stai attento. Non c'è niente che sia meno nutriente dei mangimi. Tu sei troppo suggestionabile. Il tuo cervello aderisce subito. Come trovi una bella idea, ti ci butti come su un osso. Ma attenzione, non c'è niente che sia meno nutriente delle idee. Le idee sono come quei legnetti bucati che nelle spiagge si tirano i cagnolini per farseli riportare. E tutti ci corrono dietro, le mordono, le supacchiano, le portano in giro scodinzolando e te le rimettono davanti tutte biascicate. Tu viaggi troppo, ma attenzione, non c'è niente che sia meno nutriente dei viaggi. Ti basta un paese nuovo e il cuore ti si emoziona, la testa ti gira, un infinito si apre nuovo per te, un ridicolo piccolo infinito, e tu ci caschi dentro. Il viaggio è la ricerca di questo nulla, di questa piccola vertigine per ingenuo.